notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. È arrivato l'accordo con l'Iran via le sanzioni e controlli stretti sul programma nucleare. Israele attacca, è un errore, l'Occidente si arrende all'asse del male. L'Italia soddisfatta. I magistrati lo ritengono colluso con la camorra, ha chiesto l'arresto di un deputato di Forza Italia. In manette finiscono anche un ex senatore dell'Udeur e l'ex sindaco di Caserta. Grecia per Tsipras inizierà difficile, maratona parlamentare. Entro domani vanno approvate, tra l'altro, la riforma del sistema dell'IVA e quella delle pensioni. In sciopero il pubblico impiego. Dopo 2 anni e mezzo di carcere in Guinea-Bissau è libero l'italiano Roberto Berardi, l'ex moglie a Radio 24. Ancora non ci crediamo, a Roberto hanno anche saccheggiato la casa. La sonda spaziale New Horizons passerà tra pochi minuti accanto a Plutone, era partita 9 anni fa, ha percorso 5 miliardi di chilometri. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. In apertura dunque l'accordo raggiunto sul nucleare iraniano, un accordo che porterà ad un controllo più stretto sul processo di arricchimento dell'uranio per evitare che Teheran realizzi, almeno per il momento, una bomba atomica e dall'altra parte una revisione delle sanzioni. Iniziamo col riassumere i contenuti. Una disputa che va avanti da 13 anni. Dopo 2 anni di trattativa, gli ultimi 16 giorni sono stati una vera e propria maratona negoziale. Alla fine l'accordo sul programma nucleare iraniano è stato formalmente concluso. I protagonisti, l'Iran appunto, e il gruppo 5+1, composto da Stati Uniti, Cina, Russia, Francia, Regno Unito più la Germania, sotto il coordinamento di Federica Mogherini a nome dell'Unione Europea. L'intesa vieta a Teheran di produrre per almeno 10 anni il combustibile per l'arma atomica e prevede nuove clausole per le ispezioni nei siti del paese, inclusi quelli militari. L'Iran concede l'accesso, ma limitato, riferisce una fonte iraniana. Previsto inoltre un embargo per altri 5 anni sulla fornitura di armi convenzionali e restrizioni alla tecnologia dei missili balistici per 8 anni. Teheran avrebbe voluto la decadenza immediata. In cambio cancellate tutte le sanzioni internazionali che gravavano sulla Repubblica Islamica, forse già dal 2016. In caso di violazioni dell'accordo verrebbero reintrodotte entro 65 giorni. Dura reazione di Israele, il premier Netanyahu parla di errore storico. C'è da credere che sarà forte la pressione ebraica dello Stato sul Congresso americano che entro i prossimi 60 giorni dovrà ratificare il trattato. L'intesa fa vincere tutti, dice il ministro degli esteri iraniano. Certo, il compromesso per Teheran vale assai più del nucleare. 100 miliardi di contratti petroliferi è la stima del ministero iraniano del petrolio, forse altri 50-100 miliardi per lo scongelamento dei conti all'estero e poi il ritorno nel paese delle compagnie internazionali. Claudia Vanni, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In questi minuti stanno continuando ad arrivare le reazioni, innanzitutto quella della già citata Federica Mogherini, che dice che quello di oggi non è solo un accordo ma un buon accordo per tutte le parti, e poi l'attesa reazione russa alle parole del presidente Vladimir Putin citato dall'agenzia Interfax. La Russia è soddisfatta del raggiungimento di un accordo sul nucleare e ritiene che l'intesa darà alle relazioni tra Mosca e Teheran un nuovo potente impulso. Abbiamo in linea con noi Alberto Negri del Sole 24 Ore. Alberto, buongiorno. Buongiorno a voi. La prima domanda è se i timori di Israele, che parla addirittura di un Occidente che si arrende all'asse del male, sono giustificati secondo te oppure no? Ma oggi l'Iran fa parlare molto di sé per aver firmato un accordo attraverso un negoziato. Israele non fa parlare di sé per aver raggiunto un accordo con un negoziato con la Palestina. Questo dovrebbe già farci meditare e riflettere. In secondo luogo, questo mi sembra un buon accordo perché l'alternativa qual era secondo lo Stato ebraico? Quello di raid aerei, quello di una nuova guerra? Beh, e questo è un sistema in qualche modo per evitarla, perché l'Iran viene messo strettamente sotto controllo dalla comunità internazionale e c'è sempre il modo poi di ritornare al sistema delle sanzioni. Voglio ricordare che nel periodo in cui c'erano le sanzioni dal 2003 a oggi, le centrifughe iraniane erano passate da 300 a 19.000, quindi era un sistema che non funzionava più. Ecco, per un buon motivo per cui gli americani e gli altri paesi del Consiglio di Sicurezza hanno deciso che forse era meglio arrivare a un negoziato. Alberto, che opportunità si aprono per l'Italia adesso? Beh, direi decisamente interessanti perché l'Italia è sempre stato uno dei paesi meglio piazzati in Iran dal punto di vista economico e degli affari, tant'è che domani ci sarà subito un convegno a Roma con l'ambasciatore iraniano e le imprese italiane interessate a ritornare in Iran, paese dove noi abbiamo grandi interessi con l'ENI, ma con tutti i settori, si può dire, dell'economia. L'Italia lì ha costruito la più grande acciaieria del Medio Oriente, di Mubarak, ha costruito grandi porti, fatto grandi lavori, ma anche per le piccole e medie imprese che sono sempre state attive nella Repubblica Islamica. Con un'attenzione, un'avvertenza e attenzione, non siamo soli ad aspettare la corsa all'Iran. Qui ci abbiamo molti concorrenti tra gli europei, in primo luogo la Germania che manda la prossima settimana il ministro dell'economia, Gabriel. Poi addirittura sembra che ci vada il ministro degli esteri francese Fabius, proprio per rafforzare la presenza eventuale delle società francesi. Quindi in qualche modo anche l'Italia deve prepararsi a scattare i blocchi. Grazie ad Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore, per questa analisi, e torneremo a parlare di questo accordo storico nel corso della trasmissione. Sentiremo anche Paolo Magri, direttore dell'ISPI, e sentiremo anche il punto di vista israeliano con Avi Pasner. Tutto questo più avanti, intanto cambiamo argomento e passiamo all'importante inchiesta della Procura di Napoli che coinvolge deputati ed ex parlamentari. Laura Viggiano, buongiorno. Sì, buongiorno, sono 14 le ordinanze cautelari eseguite, di cui 10 in carcere e 4 domiciliari. L'indagine accende i riflettori su diversi episodi: gli appalti per la rete idrica regionale per centinaia di milioni affidati con somma urgenza solo a imprenditori vicini alla famiglia Zagaria, quindi a Casaresi, questione che vede protagonista l'ex senatore Tommaso Barbato, arrestato questa mattina. Vi è poi un fatto definito inquietante dal procuratore capo Colangelo relativo alla cattura del boss Michele Zagaria, durante la quale un rappresentante delle forze dell'ordine non ancora identificato avrebbe fatto sparire una chiavetta USB a forma di cuore in cui il boss custodiva informazioni importanti. Il lavoro dei carabinieri della Rosse di Caserta, coordinati dalla DDA partenopea, riguarda anche tangenti per politici e imprenditori finte vittime di estorsione. I provvedimenti in carcere riguardano tra gli altri l'ex sindaco di Caserta Pio Del Gaudio, che avrebbe accettato somme di denaro e chiesto di darne anche all'ex consigliere regionale Polverino. Per il parlamentare Carlo Savro è stata richiesta l'autorizzazione all'arresto ai domiciliari per la turbativa d'asta. Savro è stato tirato in ballo nel corso di un'intercettazione in cui si parla di una tangente di 2,5 milioni per ottenere un appalto bandito dalla Gori. Della tangente non si ha prova, ma l'appalto, secondo la procura, è stato pilotato. Ai domiciliari anche un carabiniere ed un finanziere. Tra i reati contestati, associazione mafiosa, corruzione, rivelazione di segreto d'ufficio, turbata libertà degli incanti, finanziamento illecito ai partiti, sono stati sequestrati anche beni per circa 11 milioni. È tutto. Grazie Laura Viggiano per questo aggiornamento. Ci spostiamo in Grecia adesso. Le ultime notizie, quelle che vengono battute in questi minuti dalle agenzie, arrivano da fonti europee vicine ai negoziati, le quali riferiscono che è sufficiente una maggioranza qualificata e quindi non l'unanimità per dare il via libera a un prestito ponte per la Grecia. Questo dopo che stamattina il ministro delle finanze britannico George Osborne aveva detto che la Gran Bretagna non è un paese dell'euro, e l'idea che i contribuenti britannici mettano soldi sul tavolo non può proprio partire. Questo è il punto a livello internazionale. A livello greco, Alexis Tsipras si prepara, come si dice nei titoli, ad una sorta di maratona parlamentare per far approvare presto le riforme che poi gli consentano l'accesso a questi fondi. Siamo in linea con Vittorio Darold, inviato del Sole 24 Ore ad Atene. Vittorio, di nuovo buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Effettivamente, Simone, qui la situazione è abbastanza complicata. Il paese non ha pagato un'ulteriore rata al fondo monetario e quindi ci sono ormai 2 miliardi di arretrato. Sul fronte politico, Siriza ha riscontrato che almeno 30-40 deputati non voteranno il piano, mentre il partito di coalizione dei greci indipendenti, che hanno 13 deputati, sembra aver un po' moderato l'atteggiamento, dicendo che lascerà libero i deputati di votare e quindi non vogliono lasciare la maggioranza. Quindi ha appena fatto una conferenza stampa Panos Kamenos, che è appunto il loro rappresentante. Tsipras riunirà a breve i suoi deputati per cercare di tamponare questa questa fuga di deputati, ma sono già pronti a soccorrere la maggioranza, il deputati di Neodemocrazia, quindi il centrodestra, l'ex Partito Socialista PASOK, che è pronto anch'esso a correre in soccorso, e Topotami, un partito centrista. Tutto questo quindi dà una certa sicurezza che il pacchetto verrà votato. Quando? Non oggi, perché sembra che ancora non ci siano gli accordi necessari, e probabilmente domani, che è il termine ultimo, si passava domani mattina, ma è probabile che si slitti, come ormai consuetudine, nelle ore notturne, e quindi venga approvato il pacchetto grazie ai voti della maggioranza. Questo però non dovrebbe portare a modifiche di governo, perché nessuno dei partiti oggi all'opposizione vuole cercare di prendere il posto a Tsipras, anzi vogliono che Tsipras beva l'amaro calice di colui che naturalmente fa passare le misure di austerità che fino all'altro giorno con il referendum aveva chiesto appunto di respingere. E da Atene è tutto, se non ci sono altre domande. Non ci sono, no, per oggi non ci sono altre domande, Vittorio D'Aroldo, anche perché è una giornata di attesa quella in Grecia. Torneremo comunque più avanti a parlare dell'argomento. Abbiamo parlato di Grecia e del suo debito pubblico, ebbene ci sono novità anche sul debito pubblico italiano, Maggio mese dei record per il debito del nostro paese. L'esposizione delle amministrazioni pubbliche è aumentata infatti di 23,4 miliardi di euro, toccando quota 2.218,2 miliardi. Il dato, comunicato dalla Banca d'Italia, rappresenta un massimo storico. L'incremento mensile, come spiega il supplemento al bollettino statistico di Via Nazionale, è stato superiore al fabbisogno del mese, 4,3 miliardi, principalmente per l'aumento di 17,8 miliardi delle disponibilità liquide del Tesoro. Hanno influito quindi sul valore anche la rivalutazione dei titoli indicizzati all'inflazione, il deprezzamento dell'euro e l'emissione di titoli sopra la pari. Quanto ai singoli settori della macchina statale, il debito delle amministrazioni centrali è aumentato di 22,9 miliardi, quello delle amministrazioni locali di 0,5. Il debito degli enti di previdenza è rimasto sostanzialmente invariato. Altro fronte è quello del fisco, entrate tributarie stabili nei primi sei mesi dell'anno, 31 miliardi a maggio, in linea con lo stesso mese dello scorso anno. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Dati forniti dalla Banca d'Italia, che ieri ne ha diffusi altri, quelli sulla corruzione, l'Ufficio Informazione Finanziaria della Banca d'Italia. Ebbene, di corruzione oggi si è tornati a parlare anche con il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco. Francesco De Remigis, buongiorno. Buongiorno Simone, per il governatore della Banca d'Italia Visco la legalità è determinante per la crescita, e aprendo il primo incontro nazionale con i responsabili di prevenzione della corruzione, il governatore parla dell'ANAC, l'autorità che si occupa di anticorruzione, come di una delle riforme strutturali fatte finora nel Paese. Ha ricordato anche il ruolo operativo della Banca d'Italia, ma sentiamo il passaggio in cui cita la percezione del fenomeno corruttivo all'estero come influenzi negativamente gli investimenti in Italia. Approfondimenti recenti hanno riguardato tra l'altro le misure basate sulla percezione del fenomeno. Sono di rilievo nelle scelte economiche, però, anche se sono soggettive, perché come dicevo prima tendono a essere una delle variabili che influenza i comportamenti di chi investe in un paese. Ecco, Visco ha spiegato che bisogna agire alle radici del fenomeno, e su questo Raffaele Cantone, il presidente dell'ANAC, ha sottolineato l'importanza della trasparenza, citando in proposito il Freedom Information Act, la legge ispirata al modello statunitense che garantirà in futuro ai cittadini l'accesso agli atti e ai documenti della pubblica amministrazione. Banca Italia, lo ricordavi tu, aveva già citato ieri nel rapporto dell'unità di informazione finanziaria come gli uffici della pubblica amministrazione siano particolarmente esposti al fenomeno corruttivo, un mezzo, si legge nel rapporto, attraverso il quale forme di criminalità organizzata si infiltrano nell'apparato pubblico, condizionando spesso le scelte. Ecco allora che se la pubblica amministrazione non collabora abbastanza, il contributo dei cittadini può essere determinante, ha spiegato poco fa Cantone, perché sono in grado di effettuare controlli più efficaci degli ispettori dell'ANAC, conoscendo meglio i soggetti e le realtà locali. La via nazionale al momento è tutto, proseguono i lavori, vediamo se uscirà fuori qualcos'altro nel pomeriggio. Grazie a Francesco De Remigis. Roberto Berardi, l'imprenditore italiano detenuto da 2 anni e 6 mesi in Guinea Equatoriale e non Bissau, come detto erroneamente nei titoli, ve ne chiedo scusa, è uscito dal carcere di Bata il 9 luglio scorso, ma si è preso solo ora della sua liberazione. Più avanti nel corso della trasmissione sentiremo Rosa Palumbo, che è l'ex moglie di Berardi, che si è occupata molto del caso e l'ha intervistata la nostra Anna Marino. Noi nel frattempo vogliamo andare a parlare del Tour de France, se abbiamo il collegamento pronto. Non abbiamo il collegamento pronto all'indomani dell'annuncio di Ivan Basso che si ritira perché ha un tumore al testicolo. Dunque parliamo di spazio e di Plutone, della sonda New Horizons, che sta per arrivare molto vicino appunto a Plutone. Sentiamo. Dopo un viaggio di 5 miliardi di chilometri durato 9 anni attraverso il sistema solare, tra poco alle 13.39 ora italiana è previsto il massimo avvicinamento della sonda New Horizon della NASA alla superficie del pianeta nano Plutone, che verrà sorvolato ad una distanza di 12.500 chilometri. Sarà un momento storico per l'esplorazione spaziale perché è la prima volta che una missione raggiunge Plutone e le sue 5 lune, Caronte, Stige, Nix, Cerbero e Idra. I dati già arrivati nei giorni scorsi mostrano che Plutone è un po' più grande e meno denso del previsto. Le immagini mostrano formazioni che sembrano crateri e scogliere e grandi macchie, per ora misteriose, alcune scure, altre brillanti, di cui una gigantesca forma di cuore, in queste ore, a causa della rotazione del pianeta, si sta girando verso la sonda, pronta per essere osservata da vicino. Durante il passaggio ravvicinato, New Horizons freccerà la velocità di circa 50.000 km. La sonda resterà in silenzio radio per gran parte del tempo, concentrata a raccogliere dati, manderà un messaggio dopo l'avvicinamento per segnalare che è sopravvissuta all'incontro. Anche se bassissimo, c'è infatti il rischio che la sonda possa essere colpita da una luna sconosciuta o, in prossimità di Plutone e Caronte, possa collidere con frammenti di ghiaccio. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Come si diceva, passiamo al ciclismo all'indomani dell'annuncio di Ivan Basso che si ritira dal Tour de France per aver scoperto un tumore al testicolo. La corsa riprende, il punto sull'uno e sull'altro elemento con Pier Augusto Stagi che si trova là, che sta seguendo il Tour. Pier Augusto, buongiorno. Buongiorno, sì, siamo qua al Tour de France, decima tappa, la prima Pirenaica da Tarba alla Pierre Saint-Martin. 167 chilometri in programma, si è partiti intorno alle 12.25 e con la maglia gialla il britannico Chris Froome, prima verifica importante. Pier Augusto, abbiamo un problema di collegamento, ti sentiamo veramente malissimo, facciamo così, vediamo di recuperarti più avanti e proviamo a recuperarti più avanti, capisco che le condizioni siano difficili, ci fermiamo, c'è una pausa per il traffico, ci ritroviamo subito dopo, sentiremo Paolo Magri, direttore dell'ISPI, sull'accordo sull'Iran, torneremo a parlare di Grecia, sentiremo l'intervista alla ex moglie Roberto Berardi, l'imprenditore italiano detenuto per quasi 3 anni in Guinea Equatoriale. Intanto la pausa per il traffico. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. È arrivato l'accordo con l'Iran via le sanzioni e controlli stretti sul programma nucleare. Israele dice l'Occidente si arrende all'asse del male. Obama avverte il Congresso, notizie di pochi istanti fa. Porrò il veto a qualsiasi legge che si opporrà all'attuazione dell'intesa sul nucleare iraniano. I magistrati lo ritengono colluso con la Camorra, ha chiesto l'arresto di un deputato di Forza Italia. In manette anche un ex senatore Udeur e l'ex sindaco di Caserta. In Grecia per Tsipras inizia la difficile maratona parlamentare, entro domani vanno approvate tra l'altro la riforma del sistema dell'IVA e quella del sistema pensionistico. Dopo 2 anni e mezzo in carcere in Guinea Equatoriale, libero l'italiano Roberto Berardi. Paolo Magri, direttore dell'ISPI, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Istituto per gli studi di politica internazionale. Magri, come giudica l'accordo con l'Iran? In questo weekend abbiamo avuto 2 accordi dove in pratica avevamo 2-5+1 all'opera per dei negoziati e più di com'è l'accordo sull'Iran di quello della Grecia, nonostante l'accordo con l'Iran fosse fra nemici giurati e quello con la Grecia fosse fra partner nel livello europeo, nell'ambiente europeo, in quello dell'Iran c'è un risultato bilanciato, in quello della Grecia c'è un risultato dove c'è un vincitore e un perdente e alla fine rischiamo di perdere tutti. In quello dell'Iran ci sono degli equilibri, non si capisce chiaramente chi ha vinto, chi ha perso, ma alla fine forse potremmo vincere tutti. Quindi un accordo dove la diplomazia mostra, con tutte le cautele che dobbiamo avere sempre in questi casi, il meglio di sé, a differenza dell'altro accordo. Più avanti sentiremo anche il punto di vista israeliano, sentiremo Avi Pasner, punto di vista israeliano, che è molto duro su questo accordo. Tra le frasi, l'Occidente si arrende all'asse del male. Le giro la domanda che abbiamo girato poco fa anche ad Alberto Negri del Sole 24 Ore. Israele ha ragione di essere preoccupato? Israele ha ragione di avere diffidenza, perché la storia passata ha dimostrato che c'erano fattori di giustificati di diffidenza, ma ha argomentato la sua posizione su questo negoziato in modo poco convincente. Ha stressato le conseguenze dell'accordo, dicendo che l'accordo avrebbe portato alla proliferazione nucleare nella regione, e in realtà l'accordo blocca la proliferazione, perché rallenta, speriamo tutti, blocca per sempre il tentativo di un'arma nucleare iraniana. E soprattutto non ha chiarito quale sarebbe l'alternativa al non accordo, quale potrebbe essere. Un non accordo vorrebbe dire le mani libere per Teheran, e cosa, la conseguenza quale sarebbe? Un attacco militare? È pensabile, credibile un attacco militare di chi nei confronti di Teheran? E soprattutto c'è una diversa filosofia rispetto a come arrivare al cambiamento politico in Iran. Israele, dopo anni di sanzioni, è convinta ancora che schiacciando il popolo iraniano con le sanzioni si possa giungere poi a un cambiamento politico, a un regime change. Chi ha negoziato è convinto che invece a questo cambiamento politico si possa giungere aiutando l'Iran e le forze riformistiche dell'Iran, che hanno dato un segnale di cambiamento in questi ultimi due anni. Prima Cuba, poi l'Iran. Ad un passo dalla fine del suo doppio mandato, Barack Obama sembra aver finalmente impresso una svolta alla sua politica estera. Sì, sembra che in questi ultimi mesi la politica della mano tesa, la politica della diplomazia, la politica di chiudere fantasmi del passato dia qualche risultato. Come dicevate all'inizio del servizio, c'è ancora il passaggio del Congresso, che non sarà una passeggiata, perché è lì che i repubblicani, ma anche Israele, agiranno fortemente. C'è da dire che nel caso di veto, caso lo scenario peggiore per Obama, quello dove andare a uno scontro col Congresso, di fronte a un veto presidenziale è difficile che il Congresso ottenga i 2/3 di maggioranza necessari per bloccare anche il veto di Obama. Quindi tutto sommato potrebbe essere una strada difficile, ma non impossibile. Grazie a Paolo Magri, direttore dell'ISPI. Come si diceva, anche su questo andremo a sentire più avanti la posizione israeliana. Saluto Dimitri Delionanes, giornalista greco, che torna nostro ospite. Dimitri, buongiorno e benvenuto. Buongiorno e bentrovato. Allora, parliamo evidentemente di quello che sta succedendo e di quello che succederà nelle prossime ore. Alexis Tsipras si trova già piazzato uno sciopero, quello del pubblico impiego, e si prepara a una 2 giorni parlamentare che, come abbiamo raccontato anche poco fa con Vittorio Darold, sarà molto intensa. Gli esiti quali potrebbero essere, Dimitri? Ah, ogni esito è aperto, perché è veramente una situazione caotica, non si capisce quali sono le intenzioni, qual è le proporzioni e quali sono le intenzioni del, diciamo così, di chi dissenta all'interno del partito di governo di Syriza. Non si capisce cosa faranno gli alleati greci indipendenti, non si capisce quali sono le intenzioni poi del partito che si teorizzava che potrebbero entrare nella maggioranza. È una situazione molto molto complessa dal punto di vista politico. Si andrà a finire, come sempre, come ci diceva Vittorio Darold, domani notte, all'ultimo minuto, a votare questa prima ondata di provvedimenti, questi primi 4 provvedimenti. Sì, che poi anche questo non è sicuro, perché c'è una forte opposizione da parte di alcuni gruppi parlamentari e di dissidenti all'interno di Syriza a completare addirittura il processo. È una situazione complessa e insomma difficile fare previsioni. La tua impressione, sì, Dimitri, è che Tsipras sia in grado di gestire questo processo oppure no? O è in una fase di debolezza politica? Abbiamo raccontato che dal punto di vista della popolarità, la sua popolarità è ancora forte al momento, stando alle ultime rilevazioni, però discorso diverso è, come sappiamo, l'essere popolari e avere una maggioranza parlamentare e saperla tenere saldamente. Pensi che sia in grado? No, assolutamente. Il problema della distanza che c'è oramai da parecchi anni tra Syriza come partito della sinistra radicale e Tsipras, che sta diventando sempre più un leader di livello nazionale, quindi con una influenza ben oltre i limiti della sinistra. Quindi in questi momenti drammatici emerge questa differenza tra il partito della sinistra radicale e il suo leader, che invece ha una enorme appunto popolarità e raggio di influenza. Vediamo se riusciranno a trovare una mediazione o addirittura ci sarà una frattura, vediamo se sarà insanabile o no. Grazie a Dimitri Deliolanes, giornalista greco, per averci aiutato a dare un quadro, per quanto, come avete sentito, anche dal suo punto di vista, la persona che conosce molto bene queste meccaniche, sia molto difficile. Vedremo che cosa succederà nelle prossime ore. Intanto andiamo a sentire l'intervista realizzata da Anna Marino con Rosa Palumbo, che è l'ex moglie di Roberto Berardi, l'imprenditore italiano detenuto per quasi 3 anni in Guinea Equatoriale. Era finito in manette dopo essere entrato in affari con il figlio del dittatore del paese. Dunque è stato liberato ed ecco l'intervista. Noi in famiglia ancora non ci crediamo, finché non lo tocchiamo siamo in fermento, ovviamente siamo contentissimi, felicissimi, l'abbiamo già sentito, però non vediamo l'ora di vederlo. Che cosa ha dovuto subire in questi anni? Di tutto, torture fisiche e psicologiche, è stato veramente fino all'ultimo giorno. Ha fatto anche mesi in più di carcere. Anche quella è una tortura psicologica, secondo me, il mio modo di vedere, l'hanno proprio distrutto, c'era l'intenzione di distruggerlo sia fisicamente che psicologicamente. Si è mai chiesta perché? Io penso che ci siano tante componenti, tra cui anche l'odio per i bianchi. E sembra assurdo, no? Perché noi lo vediamo sempre al contrario. Le accuse sono rimaste in piedi e ha scontato tutto? E lui ha scontato tutto, penso che siano rimaste in piedi, anche se poi Roberto è sempre stato innocente. Tutto il mondo sa il giro che hanno fatto i soldi che sono spariti dalla società. Il nome di Roberto Berardi non è mai apparso in nessun conto estero. Ha dovuto pagare? Quanto è costato questa tragedia? Noi non abbiamo pagato, anche perché non abbiamo più nulla. A Roberto gli hanno saccheggiato anche la casa, quindi hanno tolto, rubato scarpe, vestiti, gioielli, qualche soldo che aveva in casa, hanno rubato tutto. Chi vi ha aiutato in questa vicenda? Io devo dire grazie, dirò grazie per tutta la vita al senatore Manconi, che è stato fantastico, perché all'inizio non mi ascoltava nessuno, non mi ascoltavano nemmeno i giornalisti, non mi ascoltavano i signori della Farnesina, non mi ascoltava nessuno, sembravo muta, muovevo le labbra, ma poi nessuno mi ascoltava, e quindi io ho fatto quello che dovevo fare. Certo, in questi anni gli è rimasto comunque vicino. Beh, come disse una volta il senatore Manconi all'ambasciatrice della Guinea Equatoriale, noi qui in Italia se un familiare è in difficoltà l'aiutiamo senza guardare tante cose. Ci fermiamo, ci ritroviamo tra un attimo per la borsa e poi nella seconda parte della trasmissione torneremo a parlare del tema del giorno, che è l'accordo sull'Iran e sul nucleare iraniano. Tra poco. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. È arrivato l'accordo sul nucleare iraniano, via le sanzioni, controlli stretti. Israele attacca, l'Occidente si arrende all'asse del male, l'Italia soddisfatta, Obama pronto a imporre il suo veto al Congresso nel caso il Congresso non dia l'ok. I magistrati lo ritengono colluso con la Camorra, è stato chiesto l'arresto di un deputato di Forza Italia, in manette finiscono anche un ex senatore dell'Udeur, Tommaso Barbato, e l'ex sindaco di Caserta. In Grecia per Tsipras inizia la difficile maratona parlamentare. Entro domani vanno approvate, tra l'altro, la riforma del sistema dell'IVA e quella delle pensioni. In sciopero il pubblico impiego. La sonda spaziale New Horizons passerà tra pochi minuti accanto a Plutone. Era partita 9 anni fa, percorso 5 miliardi di chilometri. La borsa. perfetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Ce n'è una brutta di notizia appena battuta dalle agenzie: è morto Willer Bordon, ne dà notizia una nota della sua segreteria. Lo ricorderete, è stato, oltre ad essere stato sindaco della città di Muggia per 10 anni, è stato eletto per la prima volta in Parlamento nell'87, è stato ministro dell'ambiente. Noi torniamo però adesso a parlare del nucleare iraniano e lo facciamo, come si diceva, col punto di vista israeliano. Saluto Avi Pasner, che è stato ambasciatore di Israele in Italia, è stato ambasciatore di Israele in Francia, è stato anche portavoce del governo Sharon. Buongiorno. Buongiorno a lei. Come mai Israele giudica questo accordo un errore così grave? Perché Israele ne dà prima linea di fuoco. Quando lei ha da fare con un paese, l'Iran, che dichiara apertamente, tutti i giorni, dichiara apertamente che il suo obiettivo è eradicare Israele dalla mappa del mondo, e quando si dà a un paese così, si dà la possibilità, non oggi, non domani, però in 10 anni, 12 anni, di fabbricare l'arma nucleare, di minacciare Israele e anche i vicini di Israele. Non siamo soli a essere preoccupatissimi, c'è anche l'Arabia Saudita, l'Egitto, la Giordania, gli Emirati, Kuwait, ci sono molti paesi nel Medio Oriente che non dormono di notte, non dormono la notte, perché l'Iran sarà un potere nucleare. Non sarà un potere nucleare se non osserva questo accordo. Sarà un potere nucleare se osserva questo accordo, perché dentro 10 anni, non ho visto ancora tutti i dettagli, l'Iran sarà libero di produrre quanto uranio ora, ok? E allora ufficialmente l'Iran potrà acquisire l'arma nucleare e minacciare ancora una volta non soltanto Israele, tutto il Medio Oriente. È per questo che siamo preoccupatissimi. Israele si sente tradito dagli Stati Uniti? Io non direi, no, io non parlo così. No, abbiamo delle differenze come vediamo la situazione. Certamente noi siamo qui, siamo noi fronte all'Iran, ancora una volta, un Iran che dichiara ogni giorno che vuole distruggere Israele. L'America è un gran potere, è lontano, ha degli altri interessi, vede le cose differenti. È vero che il presidente Obama non vede le cose come gli ultimi presidenti americani, Bush o Clinton o altri, lui vede le cose differenti. Non è questione di tradire, è una questione, penso, di non capire bene la situazione nel Medio Oriente e la capacità dell'Iran di essere una minaccia per i suoi vicini. La ringrazio, grazie ad Avi Pasner, ex ambasciatore di Israele in Italia. E ci siamo quasi, la sonda New Horizons sta per avvicinarsi molto a Plutone. Roberta Pellegatta, insomma, non sei proprio inviata sulla sonda, però sei qua in studio con noi. Chissà quanti astrofili vorrebbero essere in questo momento a bordo della sonda New Horizons a guardare da vicino la superficie di Plutone. In effetti questo evento storico, vale a dire il massimo avvicinamento della sonda della NASA al pianeta nano, è l'evento di gran lunga più condiviso sui social network dagli astrofili che si sono organizzati per fotografare Plutone approfittando del periodo favorevole, visto che dalla Terra il pianetino è al massimo della sua visibilità. Dunque ci siamo, questo è il momento tanto atteso. New Horizon, dopo un viaggio di 5 miliardi di chilometri durato 9 anni, finalmente è arrivato al punto di massimo avvicinamento, o meglio arriverà tra meno di 10 minuti al punto di massimo avvicinamento. Si trova a 12.500 chilometri dalla superficie superficie di Plutone. È la prima volta che una missione raggiunge questo pianeta nano e le sue cinque lune, Caronte, Stige, Nix, Cerbero e Idra. I dati già arrivati nei giorni scorsi mostrano che Plutone è un po' più grande del previsto, il suo diametro è di 2370 km e non 2368 come calcolato finora. Le immagini mostrano formazioni che sembrano crateri e scogliere e anche grandi macchie, per ora misteriose, alcune sono scure, altre brillanti. Ce n'è una in particolare gigantesca a forma di cuore che in queste ore, a causa della rotazione del pianeta, si sta girando verso la sonda, pronta per essere osservata da vicino, e questo cuore si vede chiaramente nelle immagini pubblicate su NASA.gov. New Horizons sta sfrecciando a una velocità di circa 50.000 km all'ora. La sonda è in silenzio radio, impegnata com'è a raccogliere dati, manderà un messaggio dopo l'avvicinamento per segnalare che è sopravvissuta all'incontro, mentre le prime immagini arriveranno solo domani. Quando la missione New Horizons era cominciata, vale a dire nel gennaio del 2006, il suo obiettivo era il nono pianeta del sistema solare, come era considerato Plutone. Il declassamento a pianeta nano era stato deciso qualche mese più tardi dall'Unione Astronomica Internazionale in una notizia che aveva fatto il giro del mondo, e ora Plutone torna a far parlare di sé, chissà se lascerà che i terrestri scoprano i suoi segreti. E quindi fra circa 7 minuti passerà là vicino, ma le immagini le avremo solamente domani. Tutti in attesa, tutti su internet e sui social, almeno gli appassionati di spazio. Traffico.